un barbone, si manteneva non si sa come. Aveva spine al cuore, la sua famiglia era una panchina al sole. Una bottiglia era la sua compagna, mille rughe senza vergogna. Tanto a che serve vivere in una fogna, in questo mondo pieno solo di gogna. Non ti avvicinare altrimenti sono guai, non ti preoccupare sono solo fatti miei. Tu non mi guardare, non mi giudicare, tu non sai che cosa ho dovuto sopportare in questa vita dove tutto è storto, in questa vita dove tutto è peggio. E l'unico sollievo che mi resta è di sapere che presto la mia ora e finalmente potrò morire. Parlava al vento, l'unico vero suo amico. E sotto i ponti posava umile il suo capo, una sigaretta come compagnia, una giacca malandata, una fotografia di una donna bella che aveva sempre amato, di una donna bella a cui aveva tanto dato, di una donna che gli aveva strappato il cuore. Un giorno abbandonato da ogni Dio, da ogni Signore. Aveva un cervello, ma gliel'avevano bruciato, una casa, un giardino e non aveva mai rubato. Se sei troppo onesto, ti mettono in un buco e poi ti lasciano marcire come un topo. Dormiva tra i cartoni che aveva trafugato, nel quartiere del lusso del supermercato, dove si compra tutto e niente è regalato, dove se non hai soldi sei un pregiudicato. Non ti avvicinare altrimenti sono guai, non ti preoccupare sono solo fatti miei. Tu non mi guardare, non mi giudicare, tu non sai che cosa ho dovuto sopportare in questa vita dove tutto è storto, in questa vita dove tutto è peggio. E l'unico sollievo che mi resta è di sapere che presto la mia ora e finalmente potrò morire. Parlava al vento, l'unico vero suo amico, e sotto ai ponti posava umile il suo capo, una sigaretta come compagnia, una giacca malandata, una fotografia di una donna bella che aveva sempre amato, una donna bella a cui aveva tanto dato, di una donna che gli aveva strappato il cuore. Un giorno abbandonato da ogni Dio, da ogni Signore.